Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Beh, con grande emozione che apriamo questa terza stagione di Voice Anatomy. Grazie davvero, grazie a voi per il vostro affetto, per il successo della trasmissione, per quello che abbiamo raccontato e continueremo a raccontare, che quest'anno sarà un anno bello, interessante, ma ne parleremo strada facendo, lo conosceremo strada facendo, come dice il nostro amato Mogol. Prima di cominciare a presentarvi il palinsesto di quest'anno straordinario, pieno di sfaccettature, come la voce è piena di sfaccettature, tutti i meandri, tutte le declinazioni della voce, ascoltiamo al telefono una nostra carissima amica della trasmissione, ma soprattutto per presentare una realtà molto bella in un momento molto difficile. E io al telefono Veronica Bocelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno Veronica. Allora, buongiorno. Cominciamo con te, che tu vivi pervasa dalla voce dentro casa, immagino, no? Sì, quel diciamo signore... che abbiamo una bellissima voce che mi sveglia la mattina. Cioè Andrea si sveglia la mattina come? Con un pezzo, con un'aria lirica, allora, oppure si sveglia serenamente e dice buongiorno amore, oppure fa buongiorno amore, no? Allora, diciamo che effettivamente ho sbagliato nel dire che mi sveglia, nel senso che io ricevo la telefonata normalmente da dove sono, perché io mi sveglio prestissimo e noi viviamo su due fusi orari diversi, nel senso che mio marito legge la notte e io invece mi sveglio, vado a letto tardi, dormo poco e mi sveglio la mattina presto, quindi di solito sono o in palestra o in ufficio già e ricevo la chiamata, però l'ho viziata a sufficienza che tutti i giorni aspetta il caffè. Va bene, era giusto cominciare un attimo di intimità familiare, però è bello sentirlo cantare sotto la doccia, dai, sempre meglio che mia moglie quando sì, poi lo sai, lui ha la passione degli strumenti, qualsiasi strumento, quindi si innamora e poi segue quello strumento, lo segue nel mondo. Allora abbiamo avuto il periodo del flauto, il periodo della chitarra, diciamo che il momento più difficile è stato il periodo tromba, ecco, quello abbiamo avuto delle difficoltà perché dentro i camerini, ti assicuro, non era facile, soprattutto per uno che non la sa suonare bene, ma ricomincia, strimpella, magari il periodo batteria, speriamo che non succeda mai, tesoro. No, purtroppo questo... l'ho avuto con un figlio. L'hanno attaccato a qualcuno. Va bene. Veronica, perché ci stiamo sentendo? Intanto per questa avventura straordinaria del Celebrity Fight Night con nomi, manchiamo io e Robert De Niro, e basta. Questo resto... perché tu mi hai snobbato, non, sì, cioè, sì, non vieni, è vero. Sai che siamo a Roma, come lo hai so. Detto. Ho detto, o mi fai aprire con la Turandot oppure non vengo. Cioè, all'alba vincerò, la vuole cantare Andrea, la cantasse lui, io non vengo, perdonami. Via. Allora la prossima occasione mi ristrutturo meglio. Ma sì, tesoro. Ti ringrazio di averci dato il permesso, diciamo così, di esserti vicini in questa giornata speciale di apertura. E per noi sono giorni, fervono i preparativi, esatto, per queste serate. Mm-hmm. Ovviamente saremo felicissimi perché il 15 sera, al giorno della riapertura delle scuole, quindi con tutte le famiglie a casa, mm-hmm, speriamo che siano riunite davanti a questo bellissimo evento, che è un evento che riguarda l'Italia in particolare, sì, in quanto è raccolta. I fondi che vengono raccolti verranno utilizzati anche per il progetto della ricostruzione della scuola di Sarnano, che ahimè è stata colpita durante il periodo del terremoto. Sì. Saranno 100 ragazzi delle scuole medie che possono finalmente avere una struttura in cui studiare in modo importante. Benissimo, infatti per tutto questo periodo che va proprio dal 6, che abbiamo già cominciato, fino al 18 settembre sarà attivo il numero solidale, che vogliamo sottolinearlo, che è il 45523, se non sbaglio. Esatto, Veronica, è vero? Esatto. 45523, già aperto e rimarrà aperto fino al 18 settembre, insomma mi sembra una cosa bellissima, perché poi voi avete una foundation molto importante, quella che prende anche il nome, sì, da tuo marito, che è Andrea Bocelli, ovviamente, che sì, è nata nel 2011, per cui è tanto tempo che aiutate e siete vicino a queste realtà, non solo in Italia ma anche ad Haiti, se non sbaglio. Sì, diciamo che in realtà è dal giorno in cui diventi famoso, cominci a ricevere tantissime telefonate, quindi ti hai richiesto d'aiuto, tutte sempre super valide, quindi Andrea ha sempre detto di sì dal principio dei tempi, poi a un certo punto tanti anni fa ha sentito l'esigenza di riuscire a mettere insieme, diciamo così, a convogliare le energie e gli sforzi, mm-hmm, in una mission che portasse cambiasse il suo nome, ma più che altro di cui fossimo al 100% responsabili, perché questo è una cosa importante. Nel momento in cui ci metti la faccia non si scherza. Sì, non è soltanto la voce, mettiamoci la faccia, che è la cosa esatto. più importante, così c'è il controllo, soprattutto che molte persone dicono ok, metto, do questi soldi, lancio questa cosa, dove andranno a finire? Qui si sa. Tra l'altro sai che noi crediamo fortemente nelle sinergie, quindi per esempio nella scuola di Sarnano abbiamo un partner importante di progetto che è la famiglia Rosso, Renzo e Alessia e Ariana, pardon, Rosso, in cui con la Only the Brave Foundation, in cui abbiamo per l'appunto diviso i costi di questa ricostruzione. Invece per le nostre scuole ad Haiti noi siamo in parte con la Fondazione St. Luke, rappresentata in Italia dalla Rava, e siamo noi ci occupiamo proprio della costruzione, quindi non è che portiamo fondi per farlo costruire ad altri, ma fisicamente esatto, noi costruiamo, siete sul pezzo. Tutto quello che dall'architetto dalle fondamenta, l'architetto che alla fine mette l'ultimo banco di scuola, noi consegniamo la scuola chiave in mano al comune. L'importante è che Andrea non dia i tempi con la tromba, insomma, che li lasci lavorare tranquillamente. Ecco, cerchiamo di evitare questo. È bello, poi avete lavorato anche ad Haiti con anche un terzo del Mohamed Ali Parkinson Center, so che avete questo co-branding anche sì, diciamo con che loro. In Italia l'organizzazione, come ti raccontavo, negli anni Andrea ha aiutato tante fondazioni, e quando poi è nata la nostra non ce la siamo sentita di improvvisamente abbandonare chi avevamo sostenuto nel tempo, e dunque abbiamo creato delle sinergie, quindi degli eventi di raccolta fondi dove Andrea c'è e quindi è ovviamente colui che convoglia le donazioni, ma allo stesso tempo non dimentichiamo chi abbiamo supportato in passato. Come quindi, saranno strutturate? Ah, dimmi. No, quindi pertanto, per essere chiari, per esempio con la Celebrity Fine Night di questa settimana, 2/3 del ricavato dell'incasso, insomma, vanno alla nostra fondazione e 1/3 va alla Mohamed Ali Parkinson Center, per non dimenticare il nostro Mohamed Ali, che era un eroe e chi è stato un grande amico. Sì, io l'ho solo doppiato nel film, pungi come un'ape, vola come una farfalla, battiti uomo, guarda, solo quello ho fatto. Senti, come sono strutturate queste serate? Io lo so, ma insomma, se vogliamo ricordarlo, e dove si concluderà, allora, lo so, partiti oggi. Partiti con degli eventi importanti, ovviamente il clou, siamo passati dal ricevimento del benvenuto del nostro presidente, quindi una cosa importante al Quirinale, con eventi belli seguiti in tutti i luoghi e le location più storiche della nostra bellissima Roma, come Palazzo Colonna, la Galleria della Panfili, piuttosto che ovviamente il nostro culmine, il Colosseo, che è stato un evento molto bello, che vedremo il 15 sera su Rai 1. Io vi chiedo il supporto tramite l'SMS solitario, perché quello farà la differenza, diciamo così, in termini dell'income, del risultato finale. Ma sai, sicuramente sì, perché comunque è un evento bellissimo a prescindere, cioè comunque è una grande prima amici. Serata, insomma, poi quanti amici vogliamo leggerne qua? Elton John, ecco. Steven Tyler, piuttosto che Antonio Banderas, Chris Botti, sì. David Foster, Renato Zero, Andrea Griminelli, Zara, insomma tantissimi, cioè il coro dell'Accademia Musicale Santa Cecilia. Sì, abbiamo avuto un parterre che andava dalla Susan Sarandon, a Ray Liotta, a Sharon Stone, piuttosto che Potere, che insomma tanti attori italiani del passato e del presente, compresa la Luisa Ranieri e Zingaretti con Michael Radford, perché ovviamente quella sera erano presenti anche i nostri produttori del film, i produttori del film di Andrea, che hanno fatto sulla vita di Andrea, che si chiama La musica del silenzio, e quindi l'Ambi Production era tutta presente, schierata in prima fila. Bene, mi sembra molto bello. Questa trasmissione nasce, pensa, proprio all'inizio, a parte per il fatto che io faccio il doppiatore, l'attore, eccetera, ma nasceva proprio dal fatto di costruire dei tutorial importanti per dire quanto è importante la voce, quanto è più importante certe volte del corpo, quanto è più importante di tante cose. È il primo elemento di comunicazione più importante che c'è. E facemmo anche una bellissima puntata col presidente dell'Unione Non Vedenti Ciechi Italiana, e fu un'altra bellissima sorpresa, che dice: noi siamo affezionati a voi per quanto riguarda il cinema, le cose, perché riconosciamo l'attore attraverso la voce, riconosciamo le intenzioni, il colore, eccetera, per cui fu una soddisfazione enorme, e continuiamo su questa strada e cerchiamo sempre di stare vicini a tutti quelli che vogliono sapere che cosa significa parlare, perché uno mette, oggi avremo la ministra della pubblica istruzione, la signora Fedeli, proprio per parlare di questo, parlare intanto dei suoi film preferiti, eccetera, ma anche perché nelle scuole c'è bisogno di parlare dei tutorial della voce, di parlare italiano, di mettere più teatro all'interno delle scuole, non perché uno debba fare la l'attore o il cantante, ma perché è una cosa che aiuta a stare in gruppo, disinibisce, aiuta ad esprimersi, a risolvere tanti problemi anche medici importanti. Per cui siamo molto felici, io sono stato molto felice di ospitarti almeno per questi primi 10 minuti della prima puntata della terza stagione di Voice Anatomy. Dobbiamo dire altro, Veronica? Abbiamo detto, ecco, ripercorriamo un attimo, il 15 c'è questa prima serata su Rai 1 con questi piccoli signori che hai nominato fino adesso, dove ci sarà anche lì ovviamente attivo fino al 18 settembre questo numero che è il 45523. Sapete perfettamente chi non solo mette la voce come Andrea Bocelli, ma anche la faccia, come tutta la vostra famiglia in primis davanti a tutti, e questi straordinari colleghi che sono al vostro fianco internazionali, per cui c'è grandissima attenzione e controllo in tutto questo, per cui io vi spingo, ma non ce n'è bisogno quando sono così evidenti. Veronica, non c'è bisogno. Vi chiedo di chiudere con un messaggio da parte di Andrea, che sì, è quello che è un po' la filosofia dell'Andrea Bocelli Foundation, ed è che da soli si può molto, ma insieme si può tanto di più. Assolutamente, sono d'accordo con te, sempre. Veronica, ti abbraccio forte, grazie, tantissimo, so che ci risentiremo anche magari con Andrea. Sicuro. E quando abbiamo, sicuramente voi avete più tempo e avete il fuso orario comune soprattutto. Va bene. Un abbraccio a te e alla tua splendida famiglia, grazie, Veronica. Grazie a tutti. Ciao, grazie a te. Bene, questa era la nostra amica Veronica Bocelli, la moglie di Andrea, in questa bellissima Celebrity Fight Night. Intanto al mio fianco già mi ha raggiunto il primo ospite, ovviamente doppiatore, attore straordinario. Fai sentire solo la tua piccola voce vicino qui. Un uomo, un ex giovane, ma ancora fresco. Sì, abbastanza. Soprattutto un po' stanco di voce, visto che in questi giorni il tempo ci ha un po' accompagnato in un autunno un po' troppo. Il primo effetto è stato chiudere le persiane, abbassare le persiane, chiudere le finestre e cominciare a sentire la voce che si sta abbassando. Però si sta abbassando. Po' ce n'è ancora. Lui è Sandro Iovino, non poteva non venire in un giorno di pioggia, perché lui è stato la voce di Rutger Hauer di Blade Runner, e lui è l'autore vocale di quello splendido monologo "Ne ho viste cose che voi umani non potete nemmeno immaginare", che è rimasto un po' nell'immaginario collettivo, ma lo frequenteremo. Adesso abbiamo al telefono un altro amico della trasmissione, ma non solo, un grandissimo professionista, e con lui cominciamo anche a raccontare quale sarà il palinsesto di quest'anno di Voice Anatomy. Eccolo qui, ce l'ho di fronte a me, tutto quello che c'è scritto, ma soprattutto ce l'ho nell'orecchio, ce l'avete anche voi nelle orecchie. È Franco Fussi, medico chirurgo specialista in foniatria, otorinolaringoiatria, nonché docente sulle problematiche di salute legate alla voce. Ho detto tutto, Franco? Sì, certo, anche troppo. Ciao, buongiorno a anche tutti, ciao Pino. Scusa se ti ho fatto attendere 2 minuti in più, avevamo Veronica al telefono, credo che tu conosca quella famiglia, meno male, sì, ti occupi dei suoi colleghi. Ho sentito suonare anche il flauto che ricordava Veronica. Accidenti, a saperlo ti facevo intervenire proprio per parlare di come suona il flauto Andrea Bocelli, che canta sicuramente meglio di come suona il flauto, immagino. Ma sì, decisamente sì, ma non è male neanche come strumentista comunque. Ho capito, poi lo chiederemo anche a lui. Abbiamo chiesto a Franco, come ad altri colleghi, un altro collega che frequenta la nostra trasmissione come Diego Cossu, perché sia una persona molto vicina a Franco, di avventurarci in un tutorial che possa essere molto utile a chi ascolta. Cioè, uno parla sempre di voce, io ho un abbassamento di voce, che significa, uno ci passa sempre sopra, non sa neanche come è formata dal punto di vista fisiologico il nostro apparato respiratorio, e abbiamo parecchi punti che Franco vorrà toccare. Caro Sandro Iovino, tu che mi parli di abbassamento di voce, Franco, Sandro ha avuto sempre questa voce un po' ariosa, fatti sentire. No, non è vero, sarei morto di fame. Un pochino detimbrata, cioè un pochino più povera di armoniche. Ma sì, ci sono stati dei problemi a un certo punto, ma diciamo che la voce non è mai mancata, però è mancata quella pienezza nel timbrare per cui nei mezzi toni bisognava fare un po' e di attenzione. Probabilmente sono delle caratteristiche timbriche legate a delle anomalie congenite delle corde vocali, per cui uno ci nasce così, e si chiamano solchi, sulcus, che danno alla timbrica questo carattere un po' ruvido, un po' legnoso, che è molto caratterizzante certi tipi di voce, che è adattissima quindi per fare delle caratterizzazioni vocali nel doppiaggio oppure anche nel cantare blues, per esempio. Beh, nel doppiaggio meno male che non se ne sono accorti subito. Pensa che Franco ha raccontato la tua voce come si racconta un Sauvignon, cioè, ha capito, un po' legnoso, questa, sì, capito, l'ha raccontata in una maniera meravigliosa. Beh, lui ha una proprietà di linguaggio, ma anche una discreta voce, lo devi tenere presente, sì, per le tue realizzazioni artistiche. Tu dici che bisogna chiamarlo meglio della mia. Addirittura. E no, io adesso ci sto gli scherzando. Faccio fare il monologo a Franco Fucci. Però voglio raccontare, se mi date la possibilità, certo, una cosa. Quando ero meno maturo, cominciai a fare il doppiaggio e avevo un vocione, perché il problema, per quanto mi riguarda, è nato da una frattura del setto nasale che non è stata curata adeguatamente per 30 anni. E verso i 50 ci siamo accorti che sotto sforzo la voce si abbassava, perdeva di timbro. Allora abbiamo fatto tutte le ricerche, tutte le analisi, tutti i controlli e nessuno ci capiva niente. Le corde vocali stavano bene, al massimo una leggera infiammazione dovuta agli sforzi, alla professione. Finché un giorno un foniatra, al quale mi ero rivolto, mi disse: ma guarda che qui non è problema di corde vocali, è problema della muscolatura secondaria, mi pare che disse, o ausiliaria, cioè tutto ciò che c'era intorno. Dico: ma da che cosa è derivato? È derivato dal fatto che tu c'hai il setto nasale deviato, quindi è il setto spostato da una parte, e tu hai operato per tutta la vita. Avrai avuto un trauma, io mi sono ricordato, avevo 20 anni, un calcio in faccia, giocando al calcio, da dilettante comunque. E allora mi ha detto: tu hai respirato, continuando a fare un po' di sport, sempre da dilettante, le partite, attori, giornalisti, queste, sì, cose, sì, qua. E tu hai respirato col naso, dalla bocca, ma praticamente come se avessi respirato dalla bocca, e quindi ti sei danneggiato tutto intorno. Dico: vabbè, meno male che ci sono voluti 30 anni per capirlo. Poi sono andato avanti altri 30 anni e gliel'ho fatto. È stata pure la tua fortuna, ecco, avere questa voce particolare. Grazie. Un po' alla Cesare Barbetti, un po' Renato Turi. Sì, dai, ci, sì, sta. È una voce affascinante anche questa. Sì, dai, sì, beh, poteva servire. Ma poi c'è un pezzo del 78, Iovino. Sì, sì, sì, sì, siamo diciamo in media. Quando con Franco Fucci arriveremo a 78, parleremo per radio così: Franco, allora senti. No. Ma proprio per questo parleremo di idratazione, proprio per far, esatto, durare più a lungo. Per durare più a lungo. E con lui proprio affronteremo questi tutorial per aiutarvi a capire cosa significa l'apparato respiratorio, sì, ma come trattarlo, come salvaguardarlo e come soprattutto dargli forza. Come se fosse, è un muscolo, santo Dio, nel senso, uno va in palestra e dice: faccio gli addominali, ma la voce come si fa a mantenerla, ad averla migliore, eccetera. Questo, bisogna fare questo e, sì, quest'altro. Parleremo quindi anche di farmacologia, proprio per vedere, sì, che farmaci vengono usati, quali sono gli effetti collaterali, quali sono gli effetti beneficianti, quelli malificanti, cosa fare in occasione di forme infiammatorie. E poi parleremo anche un po' di fisiologia, no? della voce, quindi il vibrato, il riscaldamento vocale, un po' tutti questi aspetti. Assolutamente, penso che anche per i bambini quanto è importante, anche posso, non solo aggiungere, per grandi, sì. Posso aggiungere una cosa a quello che hai detto te a proposito della voce, che è validissimo, sì, e condivido. Nelle scuole, ai giovani, oltre allo studio della voce, io aggiungerei lo studio della musica, sì, che è, ragazzi, una, certo, tra le arti, secondo me, è la più importante, la più bella, è sublime. Ma infatti, e guarda, anche modestamente, e questo dovresti essere d'accordo, lo sport. Sì, sì, ma amico mio, lo sport. Io metterei come fanno in America, no? Oltreoceano, insomma, certe volte sono, cantano meglio, ballano meglio, suonano meglio, fanno sport, magari hanno 5 in matematica, ma gli fanno fare delle cose incredibili. Sì, Franco, insieme, insomma, cammineremo, faremo un bel percorso sotto braccio. Grazie, Franco, grazie della tua disponibilità. Ci vediamo grazie. A questa Ravenna. Assolutamente sì, qui ti salutano tutti. Ciao, a prestissimo. Ciao. E dopo Franco Fucci c'è un'altra novità nella nostra trasmissione. Stiamo cercando la persona che si occuperà del tutorial del quanto riguarda il canto, che è Donatella Pandimiglio, che è una straordinaria professionista in tutti i campi del canto, del bel canto. Donatella, sei in linea? Eccomi, sì, grazie. Senti com'è squillante, Iovino, grazie. Senti qui, pure lei 92 anni, senti come sta. Scherzo, sto scherzando. Pandimiglio, anche con te faremo questo bel percorso sull'impostazione vocale per cantanti, ma anche per aspiranti e curiosi sulle giuste modalità da seguire, non solo per cantare, ma per avere una padronanza profonda dello strumento proprio chiamato voce, insomma. Come esatto. Si fa? Lo dico sempre, ogni tanto l'ho detto, i tutorial quando uno non può andare in palestra, accendeva la televisore, se era già in fondo che faceva gli esercizi e tu li fai a casa mentre stai a pulire casa. E diciamo che questo può essere molto utile, perché tutti quanti dicono la mia voce è brutta, la mia voce è qui, la mia voce è là. Non devi essere soltanto un attore per avere la padronanza della voce. La voce è fondamentale per rendere... È, pensate, lo ripeto, l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo. Pensate che di un discorso, proprio questo, un dialogo con Franco Fucci, che ci capisce sicuramente qualcosa in più di me, l'8% è il concetto che arriva, il resto è voce e corpo. E non è la bella voce, ma sono le giuste intenzioni. Come no? Per cui la respirazione, respirare meglio, salvaguarderebbe tantissimo anche lo stress, no? Nello yoga, in tutte... Sì, no, ma pensa che addirittura, scusami se ti interrompo, addirittura una buona conoscenza della propria vocalità e un buon rapporto con la propria voce, oltre ad essere benefico, perché non ci si fa male, non ci si stancano troppo le corde, ci si risparmia proprio nell'organo della fonazione, ma si può avere una maggiore sicurezza, una maggiore padronanza in un rapporto di lavoro, qualunque, quando una persona va a fare un colloquio di lavoro, se ha già una buona dizione, una bella presenza vocale, una sicurezza vocale, dà a questa persona anche e l'appeal per chi lo ascolta di una persona sicura di sé, ma dà anche alla persona che si presenta quel senso di sicurezza di sé in più, che può essere una carta vincente per vincere un colloquio di lavoro. Ah, sì, perfetto. Quale percorso faremo più o meno, insomma? Ce l'hai abbastanza chiaro, però insomma... Ce lo hai già preannunciato, sì, sì. Insomma, però faremo queste pillole di informazioni e di curiosità, partendo sicuramente da quella che è la base indiscutibile e ineludibile, che è la conoscenza di una buona respirazione, che quella è la base anche delle persone che parlano nella vita tutti i giorni, che sono dietro uno sportello della banca piuttosto che qualsiasi altro tipo di attività. No, no, è fondamentale, io poi lavoro tantissimo con le aziende proprio su questo, hanno scoperto finalmente quanto è importante l'interfaccia vocale fra le persone, che uno già decide la persona che ha di fronte a secondo della tipologia, sì, della voce, ma delle intenzioni, insomma. Poi fra uomini e donne c'è una differenza basilare, che se si presenta un bell'uomo davanti a una donna e vuole conquistarla, questo bell'uomo dice ciao, stasera vieni al cinema, e lui dice no, vaccio te da solo. Ma il contrario non funziona. Se viene una bella donna davanti a uno di noi e dice andiamo al cinema stasera, noi diciamo sì, non c'è problema, noi non te dobbiamo sentire parlare. Scusate, questa non è una bassezza, né mancare una mancanza di rispetto. Ma una bella donna, andiamo al cinema, ma un film muto. Certo, non devi parlare. Ma tanto noi ci capito, questa è la differenza tra l'uomo e la donna. E insomma, ma per essere bene, un po' ovviamente leggeri saranno... e divertenti. Sì, certo, però insomma verranno fuori delle curiosità e insomma adesso non svegliamo tutto, però insomma capiremo e scopriremo anche che la conoscenza della propria vocalità è il coraggio di conoscersi fino in fondo. Anche. Sì, avere la confidenza. Quindi è come fare ad avere questa confidenza. Esatto. Dai. Sì, è questo. Ci è sta. Questo. Pandimiglio, ti ringrazio. Che stai facendo intanto? Scusami, in questo momento magari hai finito di pranzare, però siamo in diretta 14:23. Di pranzare, però in questo preciso momento sto cercando di portare in fondo un lavoro di concerti miei all'estero, che dovrei fare in Inghilterra, mi auguro, spero presto entro l'anno. E poi insomma ci sono altri progetti di cui poi probabilmente avremo modo di parlare. Poi sai, quando sono cose che sono in divenire, sai meglio di me che per meglio di troppe cose non è stato l'ultimo musical che hai fatto, vabbè, a parte lavorare con Nicola Piovani eccetera, ma è stato Sunset Boulevard. Poi che c'è stato ultimamente? Sì, no, l'ultima cosa che ho fatto è lo spettacolo su Marlene Dietrich, che è stato veramente una cosa molto molto molto particolare, abbastanza unica, perché è stato un modo di raccontarla diverso da tutto quello che si possa immaginare, attraverso l'esistenza di un personaggio realmente esistito nella sua vita, che è questa Tamara Matul, che è una donna che è vissuta, poi è stata a fianco al marito di Marlene, la quale era orgogliosa di essere la persona di fiducia di Marlene, perché Marlene, per correre dietro a se stessa per la sua carriera, ha dato la famiglia, la sua famiglia, il marito e la figlia in mano di questa Tamara Matul, vecchia amica di lavoro. Insomma, manca che mi canti il titolo di testa e quello di coda, poi mi ha fatto non tutto. Non dico nient'altro, però insomma è stata una cosa molto molto particolare, molto bella, che forse riprenderemo, non lo sappiamo. Intanto ne parliamo, visto che lavorerai qui pure tu, per cui avremo modo di raccontarlo. Grazie Donatella Pandimiglio. Un bacio a voi. Grazie Donatella. Come vedi, caro Iovino, stiamo percorrendo la prima puntata, insomma, sei orgoglioso di far parte della prima puntata. Io sono orgoglioso di averti, perché tu non sei uno che gira facile. No, diciamo che è la prima e ultima volta. Eccolo, due volte, hai capito? Sandro l'ho cercato, pensate, a lui è ancora un numero urbano, cioè fai 06 per chiamarlo. Sì, sì, sì. Cellulare non esiste, SMS. Sì, sì, ruspante per sempre. Per sempre, malgrado tutto, come diceva. Malgrado tutto. Per sempre, malgrado tutto, è uno spettacolo poi che faremo anche con Alessia Navarro a ottobre a Ostia, al Teatro Manfredi, tratto da Frankie e Johnny, Paura d'amare. Ma questo è una pubblicità. Allora, capite quante cose belle? Allora, questi tutorial di Franco Fussi, la Donatella Pandimiglio ci racconterà come poter diventare dei cantanti, avremo Andrea Papalotti che si occuperà di dizione, anche lui di pillole di dizione importante, che anche la dizione è importante. Non è sempre fondamentale, che molta gente, Sandro, dice vai, sto provando a fare l'attore, sto imparando dizione, non è che basta di colonna invece di colonna e sei un attore, no? Ah, beh, tu certo. Che hai fatto l'accademia nel 1000 nel anno 1000. Anno 1000, era, sì, no, il medioevo. Anno 1000 e rotti. E rotti. Quando l'accademia era vera, quanti ne prendevano negli anni Dunque, 50, che quando l'hai fatto? Quando andai io nel 63. Nel 63 eravamo 320. Ma come 300? Concorrenti, e ne presero 30. E tu stavi in una classe meravigliosa, immagino. Stavo in una classe bella, sì, tanti colleghi e colleghe brave, sì. Il più, quello che ha avuto più grande successo è Gabriele Lavia. Ah, Gabriele. Gabriele Lavia. Sai, quel periodo? Sì. Era è più giovane di me di qualche anno, perché io sono entrato proprio per il rotto della cuffia, avendo fatto prima tutti altri mestieri. Che facevi? E stavo nel campo dei medicinali, facevo il rappresentante. E già lì però qualcuno c'entrava, perché mi ricordo che, dovendo parlare l'italiano, per vendere, non dico il nome, ma un collirio che andava molto, va ancora molto, quindi non si può dire, andavo nelle farmacie, e un farmacista di una farmacia importante voleva parlare con me. Dico, ammazza, si vede che io lo convinco. No, lui, perché diceva, poi me lo disse, era un giovane farmacista, che parlavo bene l'italiano, e poi aggiunse, ma lei è toscano naturalmente, perché si e dovete dare la delusione. No, io sono romano. Esatto. Non ci credeva. No, non ci credeva. Vedete, questa ha detto una cosa molto importante. C'era una facilità, era un chiacchierino, però in italiano. Ma infatti io sto facendo in questo periodo un corso per manager d'azienda importante, con Frank Merenda, proprio sulla voce stiamo facendo un tutorial sulla voce importante, perché è fondamentale se vuoi vendere qualcosa, anche te stesso, la voce. A parte il timbro e la proprietà, le intenzioni, l'articolazione delle parole, certo. E poi le intenzioni, che devono essere quelle giuste, non sappiamo disegnare superficiali, certo. Tu ne hai viste cose che certo voi umani non potete. E ecco, dobbiamo andare in pubblicità, è stato un blocco molto lungo, ma abbiamo presentato, ma manca una delle cose più importanti, che darà possibilità dei giovani di esibirsi, non solo, ma di avere la possibilità di entrare nel cast di un film di due case di distribuzione e produttive molto importanti, ma ne parleremo tra pochissimo, dopo questo primo blocco pubblicitario. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, sono le 14.33 primi e 20 secondi. Abbiamo preannunciato il palinsesto di quest'anno che sarà ricco di novità con questi tutorial, lo ricordo, con Franco Fossi per quanto riguarda le problematiche di salute legate alla voce e con Donatella Pandimiglio per quanto riguarda l'impostazione della voce, il canto, con Andrea Papalotti per quanto riguarda invece l'addizione. E abbiamo già al mio fianco, come già preannunciato, Sandro Iovino, un grandissimo attore di teatro e doppiatore, passato alla storia per dei film straordinari che percorreremo insieme a lui adesso. E poi quell'altra cosa molto bella è che quest'anno ci sarà, non mi piace chiamarlo talent perché camminiamo se non troppo paralleli a quelli che cantano una sola estate, insomma, però dare la possibilità dei giovani attori o che vogliono essere tali di potersi cimentare con il doppiaggio. Abbiamo avuto l'ok da parte di due grandi case distributrici e produttrici di film che metteranno a disposizione a fine stagione, quando si deciderà chi di loro potrà far parte del cast di questi film, questi giovani attori, che possono essere ovviamente sia un uomo che una donna. Daremo le possibilità a tutti, e già da oggi i primi quattro si sono presentati, che poi conosceremo con dei piccoli provini, e avranno dei minuti di disposizione, a disposizione per potersi cimentare su un monologo magari più che altro cinematografico. Intanto posso dire già il nome della prima casa distributrice e produttrice, che è la Warner Bros, che si è resa già disponibile. L'altra posso dirlo in settimana, c'è già un'ufficiosità, ma l'ufficialità arriverà in settimana, perché qui mi sembra giusto urlare quel nome e cognome dalla prossima puntata. E già oggi cominceremo a sentire, ad ascoltare dei ragazzi. Magari Sandro, se ti andrà di rimanere già qui e fare una piccola commissione già insieme a me. Volentieri. E poi ovviamente chi deciderà, a parte noi di Voice Anatomy, ci saranno già sul tavolo con queste audition i responsabili della Warner e dell'altra casa distributrice. E intanto parliamo di te. C'è una cosa, ne hai fatte tante, dico, quanti film hai doppiato? Non lo so, Sandro, non lo so. Non chiedermelo. No, non chiedermelo, anche perché poi da un certo punto in poi ho cominciato a dedicarmi di più ai prodotti televisivi, come tu sai. Ormai nella, le serie ci hanno bloccato lì in sala. Però c'è stato un periodo... Però quasi più di 30 anni fa, adesso non mi ricordo, chiedo ad Alessia e a Rachele, quel film, sì, questo film di fantascienza che è passato alla storia, di che anno è esattamente, perché pure Sandro non se lo ricorda. Una trentina di anni fa. Almeno una trentina di anni, sì, fa, il grande e indimenticato dell'82, per cui 35 anni fa. 35. Direttore di doppiaggio, doppiatore straordinario che abbiamo avuto anche qui ospite, che quest'anno ci ha salutati, è anche un'età importante, ma ci ha salutati, è Maglio De Angelis. Chiamò te e Michele Gammino per fare i protagonisti di questo film che è passata la storia, che è Blade Runner. Sì, è vero, quello era un periodo in cui nella cooperativa grande della quale facevamo parte Michele e io, Michele da prima di me, della CD, no? Che era CD, cooperativa doppiatori. Che era cooperativa doppiatori, che era la metà proveniente dalla vecchia CDC, l'altra metà era la CVD, si era divisa in due, la vecchia CDC e noi eravamo la CD. E in quel periodo c'era un grande direttore, Renato Izzo, che stava facendo un'opera di rinnovamento, diciamo, di alcune voci, e lui preferì utilizzare uno come me, che in fondo non avevo fatto ancora grandi cose nel doppiaggio, insomma, m'ero dato da fare, avevo lavorato con impegno come sempre, e quindi lui mi mise a fare alcune cose, I Predatori dell'Arca Perduta, dove faceva l'antagonista, questo Blade Runner, dove, a proposito della mia voce roca, che ha anche un vantaggio, non apparirà mai come una voce impostata, bella, teatrale, da primo attore. Il primo attore poi l'ho anche fatto nel, certo, doppiaggio, ma erano attori particolari, tipo Donald Sutherland in Gente Comune. Il film di Roderick Redford, che mi valse 4 Oscar, il primo film, sì, esatto, sempre con Renato Izzo direttore. E Maglio De Angelis, per tornare a Maglio, cominciava, era un eccellente doppiatore, lui doppiò un film comico, L'aereo più pazzo del mondo, sì, dove io feci una delle cose più belle e più divertenti. Doppiavo un attore, un primo attore di Hollywood che faceva la parodia di se stesso in altri, sì, film, ora non mi ricordo neanche il nome, ma diciamo scimmiottava il modo di parlare degli attori di Hollywood nei film western o nei film. Anche lo stesso Leslie Nielsen era così, insomma, ci metteva se lo stesso Leslie Nielsen, che ho anche fatto, è uno degli ultimi film che ho fatto. Rex Kramer, mi dicono, si chiama così. Ecco, no, io non bravo, ho delle persone molto più brave di me dall'altra, perfetto, parte, diciamo la verità. Quella fu una cosa molto divertente, per esempio, mi dicono, e anche un po', diciamo, non semplice, perché bisognava farla divertente, ma non proprio come i comici erano altri. Comunque, Emilio De Angelis doppiava il protagonista, il giovane protagonista. Ah, giovane, è vero, il giovane. Emilio era bravo come doppiatore. Sì. E poi da lì è arrivato a fare il direttore, perché esatto, con quel popò di nome, certo, era facile. Figlio del grande Gualtiero De Angelis. Insomma, e allora prese questo Blade Runner, mi chiamò e io andai a lavorare. Il personaggio che doppiavo io entrava a metà film, Maglio mi lasciava andare, però non erano cose molto impegnative, quindi io le facevo più o meno come le faceva Rutger Hauer. Arrivammo alla famosa scena del replicante che stava per morire, il replicante, l'ultimo, il capo Roy, con la pioggia che Roy Blatt. Uh-huh. E niente, lo lessi un paio di volte per mettermelo in mente, perché è vero che al doppiaggio si legge, ma se tu, dicendo una battuta, già sai più o meno quello che dovrai dire subito dopo, è meglio. Allora, mentre la leggevo, Mario De Angelis era... Come la leggevi, così, se fratete? No, non posso dirla, piano piano. No, ma non c'ho neanche gli occhiali. Ce l'hai. No, guarda, non posso leggerla perché a quel tempo i copioni erano scritti con caratteri maiuscoli. Esatto. Questo è abbastanza grande, però insomma io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento. Aspetta un attimo, scusa, abbiamo niente per raccontare 35 anni dopo? Una musica, magari. Noi potremmo far sentire, se vuoi, per facciamo sentire anche l'originale. Per squalificarmi del tutto, puoi farmi sentire prima l'originale di 35 anni fa. Però io voglio raccontare un aneddoto. Dillo, con la musica sotto, va bene. Avendola letta, aspettavo che Mario De Angelis, il direttore, mi dicesse: proviamola. Allora, proviamo. Questo significa che lui è un personaggio, e mi dice: incidiamo subito. Io: Maglio, come incidiamo? Ma non mi dici niente, falla come l'hai provata. Io pensai rapidissimamente: questo è matto, certo, però dovevo ubbidire. Lui era il direttore, dice, vabbè, poi mi dirà: rifalla. E così l'ho fatta come l'ho provata ed è andata bene. Com'era, però... questa? Come sarebbe adesso nel 2017? No, io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Non so per quanto tempo sono rimasto lì a guardarlo. So che amava la vita più di quando l'avessi mai amata. La mia vita, la sua vita. Esa non aveva data di termine, ma d'altronde... chi è che ce l'ha? Questo era Cammino, però. Michele. Non ero io, chiedo Michele, scusa, Michele. Sarebbe d'accordo. Non me la sono ricordato al volo. Scusate. Ma che voce. Scusate, c'è un brivido lungo la schiena pazzesco. Guarda, di là ci sono già i ragazzi che hanno inforcato il telefonino e t'hanno ripreso. Ti ringrazio. Adesso però, bello, per non apparire come uno che si celebra, vi voglio raccontare, voglio raccontare un altro aneddoto. Sì. Il film era Stalker. Ah. Di Tarkovsky. venni chiamato il giorno prima da Pino Locchi, il grande Pino Locchi, The Voice, a proposito sì, Pino, di voce. Mi chiamo Bond, James Bond. Ai tempi, il mio nome è Bond, James Bond. Allora Pino mi chiama e mi dice, senti amore mio, leggi sto copione, va. Mi dà un copione da leggere. Io dico, perché mi dai il copione, Pino? Non si usa più. Già allora noi non avevamo mai il copione il giorno prima. No, mai. No, leggilo, mai leggilo, perché è un po' particolare, mm-hmm. leggilo. Vabbè, mi leggo il copione e l'indomani vado a via dei Villini mm-hmm. per doppiare questo stalker. Cominciamo. E io comincio a doppiare. Non è uno che inseguiva le donne, questo stalker, diciamo, era un no, film diverso. No, era un film di Tarkovsky. Molto problematico. Sì, film d'autore. Tre personaggi, eravamo Glauco Onorato, Sergio Rossi ed io, ecco. Ma stalker lo doppiavo io perché era il più giovane dei sì. tre, era stalker. Allora a un certo punto Pino mi ferma e mi dice, ma che bordì? E Pino, qui c'è scritto così. Ma tu l'hai capito? Dico, gli ho dato un significato, non sono mica sicuro che sia quello giusto. Vabbè, vieni qua. Vado di là in sala regia, lo cominciamo a rileggere. Sì. Dice, ma qui, dice, ma non è che vuole dire un'altra cosa. Dice, sì, potrebbe. Allora, senti, fammene un'altra, ma con un significato diverso. Andiamo avanti così per quasi tutto il film. Oh, mamma. Noi eravamo ormai in possesso di una certa pratica, certo. tutti e tre. Pino Locchi era un grande del doppiaggio, quindi non c'era niente da inventare. Abbiamo doppiato tutto il film. A un certo punto abbiamo provato a chiamare Tarkovsky, mm-hmm. non poteva venire, stava a Mosca. Certo. Non poteva venire, ma non poteva proprio certo. in quegli anni uscire. Sì, da Mosca e rientrare con questa facilità di adesso. Allora chiamiamo il direttore della distribuzione, la Mos Film, sì. viene, si precipita, cominciamo a parlare con lui, non poteva capire. Più di noi. Certo. Finiamo il doppiaggio. Il doppiaggio va al cinema, non lo vede nessuno, ma io voglio andare a vederlo. Certo. Dico, adesso può darsi che vedendolo... Oh, capisco. Lo capisco. Entro, vado al cinema con la mia signora, al cinema Quirinetta. Sì, c'era ancora il Quirinetta. C'era ancora il cinema Quirinetta. Eravamo in 10 mm-hmm. spettatori. A un certo punto sento un russio o russamento. Sì. Come alcuni preferiscono dire, mi rivolto e a destra c'era un signore che dormiva e russava. Certo. La mia signora mi ha detto, dice, ma sta russando, lascialo fare. Non lo svegliare. L'unico il film è russo, lui sta russando, lascialo così. Resta con noi, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, Sandro. Vai. A tra pochissimo, poi sanatomi, grazie. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, sono le 14:48, anzi 49 ormai, primi due talentuosi futuri possibili doppiatori sono già entrati. Sandro Iovino ovviamente al mio fianco, stavi finendo di raccontare il Tarkovsky che sei andato a vedere al cinema, c'era uno russo, ma non perché il film fosse russo, ma che russava, e tu hai detto non svegliatelo. Chi c'ha il telefonino acceso? Grazie, mazza, già vi presentate così in versione aereo, ragazzi, grazie. Insomma, che è successo dopo? Un giorno uscendo dal cinema all'ingresso c'era una bacheca dove erano esposte due o tre critiche del film. Rondi, Tian o che altro, i maggiori quotidiani. Mm-hmm. Allora io mi fermo un momento e dico, ma fammi un po' leggere, voglio vedere se qui specifica qualcosa. Leggo un paio di cose in quelle critiche e mi rendo conto che nel film c'erano almeno 4 o 5 cose che noi non avevamo capito, per il semplice motivo che non si capivano, perché erano autobiografiche. Certo. Uno, c'era un'inquadratura su un bicchiere con la macchina che gli girava intorno, è perché il nonno era alcolista. Certo. E lui aveva fatto qui. Poi c'era un'altra inquadratura, un violino, perché lo zio era musicista e lui raccontava. Insomma, non consigli sto film da vederlo a qualcuno a casa. No. Stalker, poi non lo consiglio adesso perché è un po' vecchio, poi non, visto che l'ho doppiato. Ma Tarkovsky l'ha incontrato? Allora, e questo io capisco finalmente come avrei dovuto fare. Certo. Un anno o due anni dopo, a Via dei Villini, mm-hmm. al doppiaggio, c'è ancora uno stabilimento di doppiaggio, entro... E no, non c'è più, te lo sta cattiva notizia, non c'è più. Benissimo, ma io tanto non ci andavo perché non si va più con la macchina lì. No, scusami, non a Via dei Villini, a Via Margutta. Ho sbagliato. Via Margutta c'è ancora. A Via Margutta. All'ingresso, di fuori, c'è una signora, un assistente che io conoscevo, che parlava con un signore. Mi ferma e mi dice: Sandro, vieni, ti presento il maestro Tarkovsky. Questo signore con un volto interessante, scavato, che poteva fare il cinema, certo. A farlo come attore anche. Mm-hmm. Lei mi presenta, lui molto gentile, sorridente. Questo è Sandro Iovino, un attore importante, doppiatore, e lui mi dà la mano, mi sorride. La signora aggiunge: lui ha doppiato Stalker. Questo è lì che ti hanno rotto il setto nasale, lì. No? Me l'avevano già rotto, ma questo okay. Era un centro mediano di Terracina quando andai a giocare. Ha cambiato espressione e io l'ho capito, gli ho dato la mano, me ne sono andato. Poi ho rincontrato questa signora e lei mi ha detto che lui era scontentissimo del doppiaggio. Sì, sì, secondo lui era malissimo. Non aveva capito che non si poteva capire. Qui c'è un pezzo che mi hanno dato i nostri autori dello Stalker. Guarda un po' se riconosci queste. No, questo non me lo ricordo. Perché... No, ricordarlo no, però l'hanno scritto. Magari anche da qui si capisce poco, in effetti. Leggilo al volo, sì. Adesso gli ho dato adesso il foglietto. La debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile. Quando muore è forte e rigido, così come l'albero. Mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco muore. Rigidità e forza sono compagne della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Hai capito? Sandro, io devo poter fare l'applauso. Però non mi devi dare tutto così al volo. Te l'ho dato al volo, ma questo è. Ce lo sentiamo, Sandro Iovino, 35 anni fa in Blade Runner? Ascoltiamocelo, sentiti. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Sandro. Una bella musica, eh? La musica è bella, Vangelis, ma la musica è lo strumento che ci hai messo tu sopra, l'arricchisce molto il cuore. L'hai fatta benissimo anche prima. Io vi ascoltatela, perché ci sono i podcast ovviamente di Voice Anatomy, anche tu, so che in diretta qualcuno ti sta ascoltando anche da casa, che io saluto la tua signora, e sentila come l'hai fatta. C'era lo stesso cuore in un momento al volo di un pomeriggio piovoso, quella è l'unica cosa che unisce Blade Runner ad oggi a Roma, la pioggia e il tuo cuore che continua a battere nello stesso modo, e ce lo fai battere nello stesso modo, caro Sandro. Per farvi sentire la paura di quest'uomo andiamo invece su Leslie Nielsen, che è quello, era il protagonista dell'Aeropazio del Mondo, ma tu l'hai fatto, l'hai doppiato in Scary Movie, e ascoltiamo mentre lui fa il presidente degli Stati Uniti, Leslie Nielsen, film comico, sempre Sandro Iovino, e saltiamo da Blade Runner a Scary Movie. Una terribile videocassetta uccide le persone dopo 7 giorni. Forze aliene minacciano il mondo. E chi è questa Cindy Campbell? Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Ci facciamo un bel pranzetto? Signore, penso che lei debba apparire in TV e convincere la popolazione che non esistono assolutamente gli UFO. Non mi innervosisca con questo cazzo di spelling. Alieni, signore, che non esistono assolutamente gli UFO. Per me esistono. Come, signore? Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico. Potrebbe essere stato recuperato un cadavere. Potrebbe essere? Beh, c'è stato uno spiacevole equivoco. Era il giorno del ringraziamento e il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di Stato. Poi non l'ho più rivisto. No, cancella. Ci hanno fatto dei panini il giorno dopo. Signor Presidente, mi ascolti attentamente. Agente Thompson! Si allontani da quella finestra! Perché? Sono rimasto di nuovo in mutande? No, signore. È che da quando hanno divulgato la notizia sugli alieni, c'è qualcosa che non mi convince. La capisco. Sono convinto che quando c'è qualcosa che non la convince, non la convince. Mi ha convinto. Che cos'è? Una vecchia canzone di Tupac, signore. All eyes on me. Ehi, questa sì che è roba che spacca. Grazie, signore. Gliene sono grato. Hai capito? Sì. Capito quando uno fa l'attore? Sì. Quando uno ha lavorato con Romolo Valli, con Streller, con Il Mondo. Posso raccontare una cosa? Dobbiamo andare in pubblicità, ecco. Perché c'è anche un piccolo aggiornamento sul meteo, visto che stiamo vivendo un momento. Cioè, io volevo aggiungere, ma penso di aver chiacchierato già troppo. No, sta buono, ma tu sei un pazzo, tu devi tornare. Intanto stai qui, che fra poco si esibiranno i nostri ragazzi in questo talent straordinario. Tra poco, pubblicità e questo aggiornamento sul meteo, tra pochissimo. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferno. Breaking news. E un saluto dalla redazione, un saluto da Anna Migliorati. Sono le 15, grazie ancora a Pininsegno per questa finestra che apriamo dalla redazione per aggiornarvi su quanto sta accadendo a Livorno. Un'edizione in più quest'oggi di GR24 per andare a cercare di capire qual è la situazione in queste ore. Ricordiamolo ancora, 6 morti e 2 dispersi per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città toscana. 4 sono componenti di una famiglia travolti nel loro appartamento seminterrato, il padre di 37 anni, la moglie 34 e poi il figlio di 4 anni e il nonno in salvo. Invece la sorellina, ma dicevamo ancora 2 persone disperse. Che succede in queste ore? Il governatore toscano Enrico Rossi è nella sala operativa provinciale allestita a Livorno proprio per il violentissimo dubifragio. Con lui il sindaco Filippo Nogarin, che è rientrato da un giro in città, è stato durissimo. Livorno ha detto è in ginocchio, non sarà facile risollevarsi. E allora proprio a Livorno andiamo, da dove arrivano anche i primi racconti e le prime testimonianze, dove c'è Andrea Ferro. Sentite, questo è il rumore delle pale, di chi sta spalando da ore nel quartiere dell'Ardenza per rimuovere la melma, il fango, i detriti, quello che è stato trascinato dall'acqua qui a sommergere un intero quartiere, una parte della città. Stiamo cercando di raggiungere la zona di Montenero, dove ci sono 2 dispersi. Al momento la strada è bloccata e quindi siamo stati costretti a fermarci. Nel bilancio che accennavi in apertura va aggiunto anche una 7ª vittima, almeno così viene interpretata, una vittima del maltempo, e la persona deceduta sulla Aurelia in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre infuriava la bomba d'acqua. Per quanto riguarda la tragedia, la casa della tragedia di via Rodotò Canacchi, dove sono morte le 4 persone, dove è stata spazzata dalla piena di un torrente esploso un'intera famiglia, abbiamo raccolto poco fa la testimonianza di un imprenditore, si chiama Marco Gazzarini ed è il vicino di casa che ha portato in salvo la bambina e poi ha cercato di soccorrere anche gli altri componenti della famiglia. Come sentiremo, non ce l'ha fatta. Dalla regia può passare in onda il contributo audio. Sì, io ho cercato di salvarli stamattina. È riuscito a prendere la bambina, Camilla, dalle braccia del babbo con l'acqua qui al petto, poi l'ho passata a mia moglie, sono rientrato dentro, poi è rientrato anche il nonno. Ma l'acqua continuava a salire, era buio, non si vedeva niente. Quando ho visto che l'acqua superava la porta, sono immerso e sono riuscito a trovare la via d'uscita. Dopo pochi secondi la casa era piena fino al soffitto. Lei è scattato perché abita in questa casa? Io abito al secondo piano. Io ho capito subito. Ho sentito un rombo di acqua che entrava, mi sono affacciato, ho visto la macchina, il signor Macciotti che entrava nel mio giardino portata dall'acqua. Ho aperto la porta e ho sentito le urla di Simone che chiedeva aiuto. Ecco, siete nuovamente collegati con il quartiere dell'Ardenza, ripeto, si sta lavorando alacremente per rimediare ai danni di questa bomba d'acqua, ci sono auto accartocciate una sopra l'altra, scene che ho visto in altre alluvioni e che ora si materializzano sotto gli occhi degli abitanti di Livorno, una città stremata, sconvolta da questa bomba d'acqua, e già affiorano le prime polemiche. Era allerta arancione stanotte, non allerta rossa come invece era scattata in Liguria, e si dice la cella temporalesca che avrebbe dovuto sfogare i suoi effetti più violenti proprio sulla Liguria, si è poi spostata, trascinata dal vento da sud-ovest verso la Toscana e poi ha imperversato tra le 2 e le 5 del mattino qui a Livorno. 7 morti, 2 dispersi per il momento dalla città toscana. Chiuderei il collegamento. Grazie ad Andrea Ferro per il momento, perché continueremo ad aggiornarvi. Da aggiungere che nelle prossime ore saranno già in arrivo dalla Liguria, ma anche dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia, le idrovore per le zone più critiche di Livorno. Un maltempo che non riguarda però solo la città toscana. La Protezione Civile del Lazio ha confermato l'allerta fino alle 24 di oggi, ma anche in questo caso si tratta di fase arancione per ora. Qui in Lazio la perturbazione ha colpito in particolare il nord della regione, il Viterbese e il litorale di Roma. Sulla costa sono caduti 120 mm d'acqua, in sostanza la pioggia che era caduta negli ultimi 5-6 mesi. Ci fermiamo qui per ora, naturalmente da Radio 24 come sempre tutti gli aggiornamenti appena possibile. Prossimo appuntamento con GR24 alle 16, se ci saranno altri aggiornamenti chiederemo ancora la linea. Grazie, nel frattempo ancora a Pininsegno con la sua Voice Anatomy. Anatomy. Bentornati signori, dopo questa ovviamente aggiornamento sul meteo, visto che ci sta colpendo, viviamo ormai in Thailandia, si sa, dopo 4 mesi di 48 gradi adesso abbiamo i cicloni tornati, cioè, speriamo tutto bene, ma andiamo avanti e cominciamo, visto Sandro ci sei, i primi due ragazzi, perché si sono avventurati in questo talent che poi li porterà, qualcuno di loro, ad essere presenti in un film molto importante, intanto della Warner e poi insomma di quest'altra casa molto importante distributrice e produttrice, ancora non possiamo fare il nome doppiato adesso, un film della Warner molto interessante che è Baby Driver, dove ho fatto Jamie Foxx, che è molto molto divertente. E allora signori, partiamo qui alla mia destra con sì. Te, presentati. Sì, sono Alessandro Gnolfo, ho 34 anni. Senti la vocetta, niente male. Sì, una vocetta. Mi scambiavano per mio padre già a 16 anni. Quindi... Mi passi suo figlio. Esatto. Era tu un parlavi continuo. Adesso con il maestro del setto nasale, che anche tu hai questo piccolo problema. Ho questo problema, ho una narice quasi completamente otturata, mi vorrei operare. E che aspettiamo? Chiama Diego Gossu e ti fai operare immediatamente a Torino, subito. Ci sto pensando. Tu hai anche lavorato, mi hai detto, collaborato con Albert Era. Con Albert Era diversi anni fa. Per cui incidi su varie piste la tua voce in tutti i modi? Sì, sei... ho uno studio a casa, un canto a cappella da quasi 20 anni, quindi attualmente collaboro con un gruppo di Bari, si chiamano i Mezzotono, uh-huh. E facciamo una serie di tournée all'estero. Beh, un giorno verrete qui comunque ospiti, a prescindere dalla vittoria più o meno di questo talent. Assolutamente, spero di sì. Beh, sicuramente magari ti faccio sì. Anche sentire qualche traccia che ho sovrainciso, non si sa mai. Ma no, certo, tornerai, poi c'è la nostra Alessia Navarro che coglierà tutte queste perché cose no? Alla ricerca di questi talenti in tutta Italia per quanto riguarda la voce. Che cosa ti sei preparato? Scusate, appunto la voce. Ho preparato un monologo di Morgan Freeman da Le ali della libertà. The Shawshank Redemption, The che Shawshank titolo gli hanno dato. Non ha fatto una lira sto film, fino a che fu candidato a 10 Oscar. E allora andarono a vederlo in America. Sono Shawshank Redemption, tratto da una novella, poi da un piccolo romanzo breve di Stephen King, con grande Tim Robbins e Ben Assi lo doppiò, mi ricordo. E allora, vuoi una musica? Hai scelto già qualcosa, sì, non Alessandro? Sì. Già visita Ruffinati, sì, tecnico sì, del suono. Esatto. Hai capito, Sandro? Allora, ascoltiamolo. Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro, perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine orribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto e questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità, non me ne frega niente. Beh, bene, sono contento di scoprire questo percorso, questa avventura ci porterà alla scoperta di qualcuno in grado di poter fare questo mestiere, che a differenza di quello che si dice, uno dice una lobby, le cose, no, è ovvio che se uno c'è un padre notaio fa il notaio, eccetera, però c'è questa possibilità, siamo molto contenti che Radio 24 dia questa possibilità e che queste case di produzione diano poi la possibilità a qualcuno di voi di potersi cimentare e cominciare un percorso all'interno di questo mondo meraviglioso, meritocratico, che è il doppiaggio, come quello degli attori, insomma, almeno quanto riguarda del teatro, no Sandro? Interessante, nonostante il tuo amico era Mori che lo doppiasse, Renato Mori era qui, non mi ricordo se era Mori qui oppure qualcun altro. Io però di Renato ho sentito l'ultimo film dove erano due personaggi, Jack Nicholson e lui, sì, e lui che stanno per morire. Renato, ma Renato non stava già bene e mi ha raccontato Michele delle cose angoscio, però è riuscito però, a portarlo Renato a te. Mori. Uno dei è l'unica volta nella mia vita in cui ho detto a un collega mi sarebbe piaciuto farlo a me. Perché e adesso l'ha fatto lui, devo dire che ci ha fatto anche dimenticare, poi sì. Non è un monologo conosciuto per cui è giusto posso non dire una piccola cosa, sì, a lui diglielo, certo, assolutamente con sì. Quella voce intanto metti a posto il naso, perché a me dopo 30 anni ha procurato qualche piccolo guaio, sì. A te procurerà subito qualche guaio perché grazie. È nasale la tua voce e non deve essere nasale, perché è talmente scura e timbrata che non peccato, deve andare sì. Nel naso è sì, qui, certo, è sì, qui. Assolutamente. Se ti posso dare un consiglio, che non è un consiglio, è un piccolo parere, tu non avrai mai il problema di timbrare, perché il timbro ce l'hai, è quello, ce l'hai, non andrai sul fiato, perciò ti potrai divertire a con togliere i mezzi toni, i semitoni, la mezza voce. Ecco maestro, vai. Sì, sì. E la mezza voce. Sì. Come ti chiami, ripeti nome e cognome? Alessandro Gnolfo. Di? Di Catania, vengo da Catania ma vivo a Roma da 2 anni. Catania, bellissimo, che buoni. Lascia stanno mai parlare di Catania, come arrivo, già, hai nominato Catania, già mi sono ingrassato un chilo. E l'altro nostro amico? È Beppe, che viene da Monopoli, provincia di Bari, non è un gioco, ma è una bellissima cittadina. No, Monopoli la conosciamo, certo, è ovvio, che uno pensa subito al piccolo stretto. Di cognome, Beppe? Denitto. E attaccato, Denitto, tutto attaccato. Beppe Denitto. E devo dire, quando uno arriva qui, dice, arriva tutto galvanizzato, sale su e dice adesso faccio il mio monologo, ci metto poco, faccio la mia performance e vado via. E invece no, arrivi qui, trovi due maestri del genere, dici che c'è sto a fare qui? No, qui c'è un maestro. No, siamo, guarda, no, sono due. No, ma abbiamo cominciato tutti, Abbiamo cominciato tutti da qualche parte, per cui non una delle prime cose che ho fatto è doppiare una scimmia in alcune pubblicità di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, certo. Io cominciavo allora, c'era sta scimmia da doppiare che era in tutti gli spot, una decina, però mi diedero anche dei soldini che mi fecero e io feci tutti i veri della cena. Lui c'ha la scimmia e io facevi porno quel periodo, per cui guarda sta buono. Anche quelli ho fatto. Allora non lo nascondiamo. Però in compenso, devo dire la verità, proprio dopo 10 secondi, con il maestro abbiamo una cosa in comune, nel senso che anch'io come il maestro ho venduto farmaci per gli oculisti per 10 anni, per cui insomma dire. Mai. C'è qualche cosa no, nell'aria che hai portato? Io Beppe? Ho portato invece l'inno alla carità di San Paolo ai Corinzi, per cui una cosa che si trova molto in internet, sul web, e anche riletta in varie salse da diversi. No, non vogliamo ascoltare te, io non ce l'ho presente, ascoltiamo te, ovviamente. Però anche voi, io, cari radioascoltatori, potete emettere le vostre sentenze, come lo fate nei miei confronti, al numero 800 24 00 24, o se è quello per la diretta, ovviamente per gli sms, come fate già da un po', non li sto leggendo perché sono tantissimi, per dare tempo a tutti, oggi è la prima puntata, 349 238 6666. Beppe, anche tu ti sei messo d'accordo con la musica, ruffianato il nostro tecnico del suono? Sì, è la prima cosa che abbiamo fatto. Grazie Alessandro, lo fai con tutti, vai. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona un cembalo che tintinna. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare nelle montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi gioverebbe. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira. Non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma ora che sono uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa. Ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste, dunque, le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, più grande è la carità. Bene, comunque c'è un buon livello. Qualcuno scrive: perché anche voi Sanato mi fa un talent. Qualcuno è molto contento, uno dice: ma perché? Perché non è il talent per fare spettacolarizzazione gratuita a proprio favore. No, è un talent, perché così si chiamano, per dare la possibilità a dei giovani o delle persone che non hanno avuto la possibilità, perché vivono magari lontano da Roma, dalle basi dove si fa il doppiaggio o il cinema, di dare questa possibilità di entrare attraverso un mondo che è sempre più difficile entrarci. Perché? Perché c'è fretta, perché gli americani, quando arrivano le cose, nessuno può entrare più in sala a vedere come si doppia un film, non è più come una volta. Per cui questa radio, Radio 24, e queste grandissime ditte distributive sono messe a disposizione per dare un pizzico di possibilità a dei neofiti o a qualcuno che già come voi è avventurato in questo mondo. E perché no? Quando è così, perché no? Noi non produciamo poi il vostro spettacolo teatrale come da altre parti producono il loro disco, eccetera. Noi diamo la possibilità gratuitamente di partecipare, entrare a far parte di magari un sogno. Bene, grazie. Anche ai diversamente giovani. Ai diversamente grazie. Giovani. Allora, grazie. Tra poco con gli altri due e poi la ministra della pubblica istruzione, Valeria Fedeli. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati signori, eccoli qua i nostri due altri pretendenti al trono del doppiaggio. Sono uno alla mia sinistra e l'altro alla mia destra. Abbiamo salutato e saluto Sandro Iovino, che sta tornando nei meandri familiari, e io davanti a me, ecco, cominciamo da te alla mia destra, Dino Capuano. Ciao. Che è un nostro stalker praticamente della trasmissione. Sì, vero, finalmente do un volto. Beh, sei molto attento, mandi volti SMS, sei... E non solo, mi hai anche battezzato. Sì. La puntata con Emanuela Rossi. Che t'ho detto? Ho fatto un intervento telefonico, il monologo era di Memento. Ah, capirai, la cosa più difficile del mondo. Ed era... Che hai portato adesso? Il Miglio Verde, leggo. Sì, il Miglio Verde di... Sì. Sì, bellissimo film anche, sì, quello, sì, anche sì, un'altra, è uno dei Stephen miei Kingata. Vai, allora, te, musica e nome e cognome? Dino Capuano. Vai. Lo so che soffri e ti preoccupi, te lo sento addosso, ma adesso però la devi smettere. Io voglio farla finita una volta per tutte, davvero. Sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro solo, come un passero nella pioggia. Stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove veniamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno agli altri uomini. Sono stanco di tutto il dolore che io sento e ascolto nel mondo ogni giorno. Ce n'è troppo per me. È come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente. Lo capisci questo? Bene, devo dire che c'è un livello buonissimo. Sono molto felice di questa startup, di questa bellissima avventura con voi. Adesso la prossima settimana avremo altre quattro, perché è aperto anche al mondo, certo, femminile, ovviamente, non c'è una preferenza, anzi la vittoria starà sia agli uomini che alle donne, insomma ci sarà questa grande possibilità e questa grande finale, credo, a Milano nell'anfiteatro proprio di Radio 24. Io volevo salutare qualche persona, se è possibile. Sì, certo. Vorrei salutare in primis il mio mentore e maestro Christian Jansant. Oh, la voce di Radio 24. Anche Roberto Pedicini, che sì, mi è abruzzese. No, io sono pugliese. Pugliese, cioè però. Sono napoletano ma vivo in Puglia. E saluti degli abruzzesi, è bella questa. Sì, sì, sì. E poi la mia maestra e il mio faro, Alba Bucciarelli. Ah, beh. È il cuore della mia anima, i miei figli, Laura e Alessandro, e mia moglie Lia. Tutto qua. Bellissimo, come si fa nelle trasmissioni televisive tipo quelle della Garra? Perché tua moglie Lia è qui. No, scherzo. Ci tenevo. Presentati. Ciao Vino, ciao a tutti gli ascoltatori. Io mi chiamo Fabrizio. Vengo da Roma. Fabrizio, cognome? Orsini. Orsini, vengo... cognome bello. Ti ringrazio. Beh, Umberto Orsini, insomma. Vengo da Roma e niente, io ho questa passione qui del doppiaggio. Della recitazione. Della recitazione. È recitazione il doppiaggio. Io a volte guardo dei film e mi perdo la trama proprio per ascoltare come viene detta una frase, eccetera. Quindi io sono molto appassionato di questa specialità, diciamo. Siamo dei bravissimi artigiani, siamo. E veramente. Già per me essere seduto qui, insomma. Sì, so che è la tua prima volta, ma c'è sempre la mia volta in assolutamente. Tutto. E non siamo bravi quando cominciamo, invece no, però, tu lo sarai. Ti ringrazio molto della fiducia. Ma questa è una possibilità, io sono contento. Volevo salutare mia moglie e mia figlia che mi ascoltano da casa. Ma quanti anni hai? 31, quasi 32, diciamo. Mia moglie e mia figlia, quanti anni hai tua figlia? Mia figlia ha 3 anni, si chiama Ginevra e la saluto. Ginevra, in onore di qualche film, no? No, no, perché a me e mia moglie piaceva questo nome. Tua moglie come si chiama? Silvia? Raperunzolo? No, vabbè. No, Silvia. Che cosa hai portato? Ho portato un pezzo di un film famosissimo del 2000, che è appunto Il Gladiatore. Mm-hmm. E in questo pezzo Commodo, che è l'imperatore, è una persona... Joaquin Phoenix, per cui non Luca Ward, insomma. No, non Secro. Assolutamente. Okay, meno male. E Francesco Bulcaen. Bulcaen, chiedo scusa. E insomma, interpreta questo imperatore dalla dubbia morale e minaccia addirittura un bambino. E questo ce lo devi far arrivare con la tua emozione. Ci proviamo. Tranquillizzati, respira e vai. Se sarai molto buono, domani sera ti racconterò la storia dell'imperatore Claudio. Egli fu tradito da coloro che gli erano più vicini, dal suo stesso sangue. Bisbigliavano negli angoli bui e uscivano a notte fonda. E cospiravano. Ma l'imperatore Claudio sapeva che stavano tramando. Egli sapeva che erano come piccole api industriose. E una sera si sedette accanto a una di loro, la guardò negli occhi e le disse: «Raccontami che cosa stai combinando, piccola ape affaccendata, o abbatterò coloro a te più cari. E tu mi vedrai fare il bagno nel loro sangue». L'imperatore aveva il cuore spezzato. La piccola ape lo ferì più profondamente di quanto potesse fare chiunque altro. E che cosa pensi che sia accaduto dopo, Lucio? La piccola ape gli raccontò tutto. È al nostro segnale. Scatenate l'inferno. Bene, Dino, grazie a tutti e due. Arrivano pure i primi commenti, eccetera. Io devo salutarvi immediatamente perché diamo poi la parola a un'intervista bellissima, sfaccettata a 360 gradi con la ministra della pubblica istruzione Valeria Fedeli. La conosceremo più intimamente come donna soprattutto, e tutto quello che sta succedendo, i suoi film preferiti, uno di quelli è proprio Blade Runner. Pensate, come l'ho detto. Ok, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Signori miei, bentornati a Voice Anatomy. E vicino a me ho il ministro o la ministra? La ministra, ce l'ho un corpo da femmina? Sì. E allora sono la ministra. Ecco, avete capito subito il cipiglio. La ministra Valeria Fedeli, ministra della pubblica istruzione. Io ho fatto tutte le scuole, ministro. Bravo, mi raccomando. Tutte, ho fatto tutte, anche l'ISEF, si vede dal fisico che ho fatto l'ISEF. Si vede dal fisico, è vero, ma ti stai mantenendo, vai avanti a far ginnastica, perché sai, se lo fai da piccolo e poi non vai avanti, perdi. Lo so, ma siamo per radio, come possiamo bluffare? No. Possiamo... Neanche per radio si può bluffare. No, bluffare fisicamente, posso dire che è un corpo indimenticabile. Oh, santa pazienza. Va bene, ministro, mi scusi. Ma tanto ci diamo del tu. Certamente. Perché io voglio conoscere Valeria, cosa racconta, cosa ha vissuto, la sua vita di donna, di madre, di tutto. E soprattutto, ecco, voglio che mi racconti i tre film della tua vita, Valeria. Tre, almeno tre. Poi se ce n'hai due, e perché? Noi faremo anche se tiri i trailer, ovviamente, oppure ospiteremo. Io dico questo, che il primo film in assoluto, secondo me, perché ero piccola, perché era la prima volta che andavo con un amichetto al cinema, però mi aveva molto appassionato la storia, che ogni volta che lo rivedo, e ogni volta che lo rivedo continuo a commuovermi, era il dottor Zhivago. Intanto, quanti ne avevi? Piccina, adesso non mi ricordo. Ma lui si addormentò al tuo fianco? No. Perché 4 ore e un quarto al dottor Zhivago. È bella la cosa, per cui mi aveva molto colpito che era lunghissimo, ma straordinario. Bella la storia. Ecco, arrivavo, fermati lì. Sì, mi fermo. Bellissima la storia, con cui poi, prima ho visto il film, poi sono andata anche a leggermi ovviamente il libro, e Omar Sharif straordinario, di una bellezza fantastica. Da adolescente, poi dopo aver visto questo film, la cosa che poi dicevo alle mie amiche e miei amici era che il mio papà somigliava a Omar Sharif. Ma era vero? Abbastanza. Tu sei proprio nel nord Italia, insomma. Poi non nata a Treviglio, esatto. Provincia di Bergamo, poi all'alba dei 18 anni sono andata a vivere a Milano e cresciuta conseguentemente, dal punto di vista culturale, politico, sociale, a Milano. A Milano. Detto questo, però, io ho ancora questa magnifica foto di mio padre, quando mio padre aveva, credo, tra i 23 e i 25 anni, appesa ancora a casa, che mi porto appresso, lui seduto su una roccia in riva al mare, non mi ricordo in che occasione l'avesse fatta, perché era veramente giovane, con i pantaloni bianchi, una giacca. Credo scura, blu, insomma era una foto moro, bianco lui. E nero, lui moro, nero, occhi carbone, bellissimo volto, poi insomma secondo me l'uomo più importante della mia vita è stato mio papà. E gli uomini somigliavano a tuo papà? Li cercavi? Questa è una bella domanda, stiamo scavando dentro, ecco. Comunque diciamo che è una persona che, come credo valga per tutti, insomma ha molto segnato il mio rapporto positivo con gli uomini ma con la mia grande autonomia, perché poi la seconda parte femminista ho scoperto l'autonomia attraverso che cosa? La lettura di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. Eccolo per là. Cui la grande forza dell'autonomia delle donne. Che non ci hanno fatto un film lì, però. Non ci hanno fatto il film. Poi l'altri filoni di film, però insomma quello che mi ricordo. Per cui il dottor Zhivago ha segnato insomma questo approccio, questo startup. Sì, poi va bene, c'è poi il film di... Il fidanzatino che fine ha fatto? Lui, ma no. Eravamo amici, ci siamo voluti bene. Non è successo? Non è successo niente. Niente, al cinema, quelle cose carine che hanno distratto. Lì continuavo a piangere, appassionata. Col tema di Lara, musica di Maurice Jarre. Secondo me è una cosa fantastica. Se l'Oscar, insomma, non a caso. Però lì non me ne ho resa conto, ero davvero giovane. Quindi sì, ero proprio presa da questa straordinaria storia bellissima. Che io vorrei vedere in tutte le scuole queste storie bellissime. Sai, è complicato, perché comunque ti fa vedere una storia anche, diciamo, di rapporto in cui c'è una profonda passione, un profondo amore, una grande dedizione, ma anche dentro, diciamo, percorsi matrimoniali non proprio ordinari. Certo. Se ci pensi, certo. È vero, hai ragione. Quindi, occhio, attenzione. Bisogna stare attenti a quale scuola farlo vedere. Diciamo che fa parte della cultura e della conoscenza questo. E questo è il primo film. Il guarda, secondo, poi se ce l'hai, il secondo faccio fatica a ricordare il titolo, però è un film di Buñuel, esatto. Il fascino discreto della borghesia. Bravo, vedi. E non ci siamo messi d'accordo di prima. Giuro, davvero. Perché anche quello a me è piaciuto molto. Anche quello a me è piaciuto molto, diciamo, era molto presa dalla storia, perché lì ho cominciato tutti i vari cineforum e così. Quindi un rapporto straordinario, cosa di cui sono ancora appassionata, anche se per ragioni drammaticamente di tempo frequento meno le sale cinematografiche, io adoro il cinema. Adoro moltissimo il cinema. Adoro anche molto il teatro. Adesso confesso una cosa. Bella. Che quando sono arrivata a Milano, dove per ragione della mia storia familiare ho subito iniziato a lavorare, ad insegnare nella scuola, nelle scuole materne del Comune, sì, di Milano, e nel frattempo sono andata avanti a prendere il mio secondo diploma di assistente sociale dopo aver preso quello di magistrale per insegnare nelle scuole materne, che quello l'ho preso a Bergamo, invece assistente sociale. Ecco perché mi guardi con un'aria strana, perché fai l'assistente sociale, mi guardi, sempre, mi stai guardando. Io diciamo sono molto umanistica da questo punto di vista. Mi stai analizzando. Però no, non è vero. Mi serve l'accompagno, Valeria. Non è vero, no. Okay. Sei in splendida autonomia, splendida forma. Sai qual era l'altra mia passione? Sì. Il teatro, recitare. Ah, per cui dentro di lei si nasconde questa... Cioè... Ma nel senso che mi è sempre piaciuto molto, intanto interpretare, leggere, anche perché penso per esempio che la lettura, questo vale sempre. Sì, no, questo è assolutamente... Sì, questo? No, questo da fare uno spot tutti i giorni sulla lettura. Vero. Anzi, poi libro. Ci ragioniamo è un di buon questo. Film, ma sì. Perché, diciamo, non solo stimola sempre di più ad approfondire la conoscenza del la mondo, fantasia. Ma sono esatto, ma sono tante vite. La curiosità. Ma sono tante vite, sì. Non solo la tua, ma le tante vite che tu incroci. Infatti, nella lettura. Io lo dico sempre per radio: un buon libro e la radio aprono il cuore, aprono la mente. Assolutamente vero. Perché tu per radio puoi dire: siamo a Londra, fa freddo. E la lo puoi senti, descrivere lo descrivi, davvero, senti sì, due effetti. E il libro è uguale, perché poi il film è sempre inferiore al libro. Perché il tuo libro fai i tuoi attori, gli dai le facce tue, le emozioni, i colori. Ma poi comunque ti appartiene più diretto, adesso sembra paradossale, ma anche il fatto di tenere in mano un libro mentre lo leggi. A me piace molto sì. Comunque il cartaceo, anche sì, se siamo analogici, al mare. Diciamo. Però comunque quando sei al mare va bene anche il tablet per poter leggere più facilmente sotto in spiaggia. Però anche questo è stato importante. Per cui, io lo urlo da questi microfoni da due stagioni, che aiuta tantissimo la voce, il recitare, quello sai che tu che hai cos'è? Detto esatto. Nelle scuole. Bisognerebbe imparare ancora di più, non solo la grammatica italiana, ma parlare italiano. Parlare italiano e, diciamo così, essere aiutati anche a leggere. Sì. Perché leggere è anche un'altra a modalità, alta. A voce alta. Esatto. Brava. Ma io sono proprio convinta di questo. Sì. Una delle cose che mi aveva sempre aiutato nel mio percorso scolastico è esattamente le insegnanti che ti facevano lì. A me piaceva quando mi chiedevano di leggere, no? Anche tocca all'elementare. Tocca l'unaria, eri così? Eri molto abbastanza, attento. Sì. Un po' discola, nel senso che mi piaceva molto anche poi scambiare le parole, le chiacchiere. Che lavoro volevi fare da piccola? Allora, avevo due passioni, sì. Uno quello del che ho scoperto un po' più avanti di fare teatro, ma il mio sogno era fare la psicanalista, cosa che non ho potuto fare per questioni di provenienza. Adesso lo fai con i due colleghi, lo fai. Però diciamo che sono rimasta, ovviamente o comunque al di là del fare un percorso di studio specifico per quello che non l'ho fatto, però ho molto amato Freud, ho molto amato poi anche leggere, comunque studiare i testi, e mi è sempre piaciuto ed mi è rimasta come caratteristica, lo si capisce, credo, da come guardo le persone, alla qualità dei rapporti. Cioè, penso sempre che l'incontro tra persone sia un grande e straordinario fatto di vita, di comunità, di attenzione. A me piace molto scoprire l'anima, la personalità. La vera comunicazione non verbale, come si dice adesso, magari l'incontro. Anche la programmazione neurolinguistica, anche, per però, carità. Sì. Però l'incontro è vero, sei curiosa in questo. Sì. Infatti sono una buona ascoltatrice. Che bello. Ho tante amiche, ho tanti amici esattamente, mi hanno sempre riconosciuto questo. E poi, non a caso poi, anche in politica sono una molto attenta all'ascolto, al dialogo, alla capacità di ascoltare quello che l'altro ti dice da un punto di vista, adesso dal punto di vista politico, per affrontare e cercare, se e possibile... E tradurlo poi nella quotidianità di quello che serve nel tuo problemi, lavoro, esatto. Certo, da bambina se ti avessero detto, diventerai la ministra della pubblica istruzione, mentre stai a scuola, dici no, per amor di Dio, ma che... Ma non ci avrei neanche mai pensato, nemmeno nel percorso, devo dire, nemmeno nel percorso che ho iniziato praticamente quando avevo 22, 23, 24 anni di sindacalista a Milano, quando ho incontrato appunto da dipendente del Comune di Milano, ho incontrato prima il movimento studentesco a Milano e poi la CGIL di Milano, che era una CGIL, stiamo parlando dei primi anni 70, una CGIL guidata da quella che io chiamo la cultura riformista della CGIL, con riferimenti a Luciano Lama. In quel caso la CGIL di Milano era molto aperta. Con i politici con la P maiuscola. Politici attenti ai cambiamenti. Guarda, io non mi scorderò mai una cosa molto importante. Ovviamente da giovane manifestazioni, sì, contestazioni, però faccio parte di quella generazione di giovani a Milano la cui relazione con la Camera del Lavoro di Milano e col Partito Comunista Milanese, ma anche col Partito Socialista Milanese, ha davvero dato la possibilità di non finire, diciamo, nella parte eversiva, diciamo, di quei movimenti, di quelle fasi che hanno avuto anche delle cose brutte. A compimento, insomma, qualcosa è andato. Ed è stata per me anche molto formativa, cioè, fare la sindacalista cominciando proprio, diciamo, dal primo gradino di delegata dei settori educativi del Comune di Milano e man mano poi responsabile nella segreteria di Milano degli enti locali e della sanità, poi sono stata chiamata tra... Sì, però è un percorso che è stato molto sostenuto e accompagnato da formazione, che è l'altra grande, secondo me, valore che mi porto e che cerco di trasmettere sempre anche nella mia nuova funzione dell'educazione permanente. Da soltanto un anno, però se Neanche un anno, a dicembre un anno. Il 12 di dicembre. Però stai facendo tante cose. Poi io sono d'accordo con te su una cosa. Dimmi. Tu hai parlato di teatro. Io sono sempre sicuro che una formazione umanistica è aiuti chiunque. Se tu sei un chirurgo e ami la musica, non puoi che essere un chirurgo migliore. Se tu sei un avvocato ma ami recitare, non potrei che essere un avvocato migliore. Cioè, la sensibilità non può prescindere dalla musica, dal teatro. Ma che poi è la caratteristica della formazione storica italiana, proprio dell'istruzione italiana, a cui io tengo molto. E mi è capitato spesso di dire in questi mesi anche pubblicamente una cosa che viene rilevata anche dai dati statistici internazionali. La nostra formazione di cultura umanistica è fondamentale anche per chi deve acquisire, e noi dobbiamo acquisire anche, competenze scientifiche e tecnologiche, ma ti aiuta moltissimo, tant'è che i nostri ragazzi e le nostre ragazze, anche quando vanno all'estero, hanno molta più facilità e agilità nell'apprendere, nel stare dentro ai cambiamenti delle nuove possibilità tecnologiche, proprio perché c'è anche questa base di formazione umanistica che noi dobbiamo assolutamente perdere ma rilanciare. Sì. E a proposito di italiano, grammatica, lettura, sì, posso dirti una cosa? Dimmi Valeria. Che a giugno, fine giugno, dopo che il professor Serianni è andato in pensione dall'Università La Sapienza, subito due giorni dopo l'ho chiamato, ho chiesto la sua disponibilità a lavorare qui al Ministero, essendo lui in pensione gratuitamente. Può farlo? E mi ha detto di sì, per rilanciare, lo incontrerò nei prossimi giorni, per rilanciare dentro le scuole italiane il valore, ma culturale, oltre che della conoscenza della lingua italiana, della lettura. E l'incrocio anche con te sull'utilizzo della voce, della capacità di leggere. Il coaching, leggere, come lo chiamano all'estero. Esattamente. Perché tu io penso che sia importante per le nostre scuole. Cioè, noi dobbiamo puntare sul serio la qualità dei contenuti nuovi. Adesso abbiamo anche molti strumenti che possono facilitare che cosa? L'apprendimento e anche, secondo me, la capacità di coinvolgere, diciamo, l'insieme dei ragazzi anche in termini individuali, perché ciascuno ha fasi di crescita, di apprendimento diverse, non siamo tutti uguali, no? Assolutamente. Per storia, per provenienza, per caratteristiche personali. Sì. E adesso ci sono maggiori strumenti. Ma è fondamentale, perché noi lo diciamo dalla prima puntata, la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, ma non la bella voce, sono le belle intenzioni. Cioè, studia, noi nasciamo con questo strumento. La lingua è la lingua lo aiuta. Cosa fondamentale di l'aiuta. Io non voglio più i professori col nodulo dell'insegnante. Che fanno? Allora, pagina 12, Garibaldi. Vabbè, questo però non succede. No, il non mi trattare così. Non te. No, non mi trattare così. No, io sono insegnante, io mi chiamo insegno di cognome. È vero, cioè l'hai proprio. Per cui sono diplomato all'ISEF, sono professore di educazione fisica. Bravo. Questo lo notiamo dal fisico, l'abbiamo detto Vabbè, all'inizio. Allora lo ridico. È perfetto. Non so se sono state le vacanze, è anche un po' dimagrito rispetto a giugno. Esatto. Perfetto fisico, va bene. Non sai che sto respirando da un quarto d'ora. Per cui la voce è fondamentale, perché poi proprio di uno speech, di un discorso, è solo l'8%, come abbiamo fatto uno studio con il dottor Franco Fussi, l'8% è il concetto, il resto è voce e corpo. Comunque una delle cose belle che hai ragione, una delle cose belle che a me piace fare, purtroppo anche qui poco tempo, è quando posso leggere un libro, una favola ai miei nipotini. Guarda, questa è una cosa bella. Per esempio, c'è la storia di questo pesciolino che tra l'altro ho letto anche per la RAI ai ragazzi che c'erano all'anniversario della morte di Borsellino. Esatto. Che mi ha molto appassionato, insomma, questa storia di Guizzino, che è il pesciolino, l'unico pesciolino. Attenzione, signori, parte la favola, non vi addormentate per radio, che la ministra mi parte con la favola. No, non lo faccio. No, fallo, no! No, però era il pesciolino nero in mezzo a tanti pesciolini rossi che vengono mangiati. No, la conosco, è troppo divertente. È bella? Una favola per bambini. Vabbè, ma tu sei grande, mica posso leggerti. No, scusami, volevo dire, tu sei uno splendido giovane. E mi ringrazio. Detto questo. Quello per i bambini da 0 a 3 anni che devo fare un provino per fate fare una parte in uno spettacolo a teatro. No, guarda, no, guarda, no. No, beh, tu sei una donna dotata di una grande autoironia meravigliosa, che la gente deve conoscere. Per questo morte, sono qui. Tu hai presente Ferite a morte, il testo della Dandini? Sì. Tu lo sai che 3 anni fa al teatro La Pergola di Firenze te l'hanno fatto leggere. Mi hanno fatto fare una parte e quindi l'ho letto. Ero emozionatissima, ma la cosa divertente è stato che nel pezzo che dovevo leggere io, di uno dei testi, tu sai che si parlava di una cosa molto seria, molto, no? Il femminicidio e la violenza sulle donne. Ero la penultima, diciamo, che entrava a leggere. Ma prima di te, attrici. C'era Lella Costa, cioè, quindi c'erano anche cantanti. Cioè, lei aveva messo insieme come varia umanità artistica. Ma anche persone, diciamo, della politica. E comunque impegnate nel sociale. La penultima, signora. Ero la penultima perché uscivi con le musiche, ma la cosa divertente cos'è stata? Adesso la racconto in modo divertito, ma ero emozionatissima, un po' mi mancasse la voce, il fiato e tutto. Quando sono arrivata prima dell'ultima frase finale, io in realtà ho fatto un sospiro, ma perché ero emozionata. Applausi. Poi ho fatto il finale di nuovi applausi. Quando sono tornata dietro le quinte, Serena dice: ma tu l'hai fatto scientifico, proprio da attrice consumata che ha cercato l'applauso. Gli ho detto no. Era esattamente perché ero emozionata e ho dovuto però nel momento giusto. Questo esatto. Cosa significa? Che le pause fanno molto di più che le parole. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy. Continuiamo la nostra bellissima, rilassante intervista con la ministra della pubblica istruzione Valeria Fedeli. Stavamo parlando di quanto è importante la pausa nella recitazione e nella voce, negli speech. Prego! L'utilizzo della pausa è che una pausa deve essere una pausa, non un buco. Devi, quando sei a teatro, devi far battere il cuore. E respira la gente con te, perché la gente ride in quel momento o piange in quel momento, perché ci sono dei tempi drammaturgici che sono matematici. Se tu perdi quel tempo non scatta più la risata, se perdi quel tempo la gente perde il respiro. Se tu fai una pausa vera, il levare, la gente si blocca con te nel respiro. E quando tu riparli, la gente rirespira insieme a te. Quando mi dai lezione? Costi tanto? È tanto. Lo dico chiaramente. Tanto. Sì, Valeria mia, poi già mi hai detto che è venuto con l'Università della Sapienza gratis, che qui sta in pensione. Io non sto ancora in pensione, ma ne parliamo a microfoni spenti di tutto questo. Però vedi, io sono per riconoscere il valore economico del lavoro, di qualunque lavoro, da quello che viene considerato il più umile al più importante per l'insieme della società, perché riconoscere valore economico è anche riconoscere dignità alle persone che lavorano. Signori, questo vale, è registrato, non vale come contratto ancora, che non abbiamo parlato di impegno, ma solo una cosa morale. In generale, per adesso. Etica. Tu mi hai ricordato invece Freud, che io ho avuto l'esperienza di doppiare Freud nel film, nel film di Viggo Mortensen, ma la brutta figura che ho fatto te la devo dire. Perché allora, il direttore di doppiaggio mi dice: Pino, allora è la amicizia di Freud, epistolare, con eccetera, eccetera. No, ma io ho detto: non mi dirmi niente, perché un attore meno sa è meglio. Comincio il film e lui scrive una lettera e la voce fuori campo di Viggo Mortensen, che faceva Freud, dice: mio caro amico Young, quello che ti... E quello ha fatto Yang, quello è Neil Young. Questo è Jung, Pino. Jung! Che Yang! Ha fatto Dio, sì, è vero, ti chiedo scusa. Vedi che è meglio che ti raccontano? Pensa è che meglio figura. Conoscere. Figura. Mio caro amico Yang. Va bene, Pino, quello è Neil Young. Questo è Jung, che è un'altra storia. Fantastico. Ma succede, però ammetto la mia ignoranza. Era bellissimo quel film. Sì, bello, particolare. Molto particolare. Sì, molto particolare. Ho capito, sì. Meno durante, però... Non si deve dire. No, ecco. Ci sei il microfono, mi sono no, dimenticato. Non si può, vabbè, e con via. Te mi dimentico io. Va bene. Senti, ultime cose. Abbiamo la cena, il terzo film ti viene in mente, che poi abbiamo guarda, fatto una passeggiata. Il terzo film c'è qualcosa è quello con ricordi? Harrison Ford. Da Indiana futuro, Jones, no. Star Wars. No, a Blade Runner. Blade Runner, ma anche testi teatrali che sono ovviamente anche cultura. Con l'ultima delega che abbiamo fatto sulla cultura umanistica, quindi fare entrare nelle scuole la conoscenza delle arti in generale, musica, cinema, teatro, mm-hmm. la cultura da questo punto di vista. Io penso sempre di più che alle ragazze e ai ragazzi, se gli diamo il volto di un attore, di un'attrice che ha interpretato, certo. li avvicina di più. Perché? Perché ormai le scienze ti dicono anche che se tu coinvolgi nell'apprendimento i ragazzi e le ragazze anche con... l'emozione, il sentimento, quindi sai, no, li coinvolge vinci, davvero, certo. cioè, a me mi ha convinto, è più forte l'apprendimento. Quando a scuola hanno detto andiamo a vedere, dico guardi Pirandello al Liceo, esatto, ho 15 bravo. Anni, ho detto che bello, non faccio il compito in classe, poi invece cosa è successo? Perché vedendo Romolo Valli, esatto, perché pensavi di distrarre, invece no, ho visto Romolo Valli, ma coinvolto e ho deciso di fare questo mestiere, dai, quando io ho visto l'Io Quarto di Pirandello a teatro. Adesso non perché poi tutti facciano. No, però pure se però su 100 ne prendiamo 10. Ti coinvolge tantissimo. Ma a livello proprio umano, cioè la preparazione, sì, quello sì, che dicevamo sì. prima, che umanizza molto di più. Per cui Blade Runner, per cui dovresti fare il monologo adesso. Non sono capace. Tu dovresti dire, io ne ho viste cose. Le cose che voi umani non avete mai visto. Non potete non neanche, potete neanche immaginare. Navi da combattimento al largo dei bastioni di Orione. Cazzo che memoria. E ho che visto hai. I raggi B. Dillo. Balenare nel buio. No, e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Mazzia. È tempo di morire. Beh no, Alessandro Iovino che lo faccio fare a lui dopo tanto, non preoccuparti, guarda, te lo dedichiamo guarda, tutto qua. Che meraviglia. Anche la musica per te ha avuto? Sì, molto. Sulla musica, vabbè, a parte la passione tipica per i Beatles. Chi era il tuo cantante preferito? Beatles. Okay. Però voglio stare agli italiani. Sì? Ti stupirò, dimmi. Forse, però fa parte della mia, tra virgolette, milanesità. Mm-hmm. Ornella Vannoni. Ornella. E Iannacci, esatto. Iannacci. Iannacci, vabbè, Iannacci ogni vabbè. Volta che lo sento anche a casa mi rigenero, non oddio. So come dirti, proprio ironico, colto, intelligente, capace di fare musica ma e poesia. No, ci stanno i titoli di testa Lavanoni del film. Vannoni e Conte. Vabbè, dai, stanno nominando cose, sono... roba bella. No. Ti chiederei di cantare via di qui, ma non te la senti, di cantarlo così a cappella. Vero? Tu lo sai chi è che ha scritto Azzurro? Conte. Vedi? Vedi? Io perché ti dico Azzurro? Perché essendo io molto stonata, però adoro cantare sei comunque. Sei diseducata nel cantare, no, non sei stonata, vabbè, nessuno no, è stonato. Ti assicuro che sono dici stonata, che... allora però siccome amo lo stesso cantare quando si è in compagnia, dico sempre, ma io canto in re, per dire che, in sì, re. Che non sono in re. Allora avvenuto... Azzurro è l'unica delle cose alla che mi viene quella? Abbastanza, non mi far provare a cantare. No, no, perché io voglio che tu faccia il ministro ancora per un po'. Perché se no arriva qui ancora il presidente del Gentiloni e fa sì, sì, Valeria, vabbè, Fedeli, mi raccomando, per te Paolo, il basta. Governo finisce qui e non finisce, non no, è per l'amor del cielo, no, non no, va no. bene. Serve una persona come te, perché mi è piaciuto venire e cominciare con te questa puntata, a parte questa serie nuova di puntate, ma parte perché sei ovviamente la ministra della pubblica istruzione e quando si parla di formazione, quella che dici tu all'inizio, che è fondamentale perché in una nazione come l'Italia la formazione è quella che scende in campo la domenica della tua squadra del cuore normalmente. E invece, no, posso dirti un'ultima come cosa no? su questo, proprio per il ragionamento serio che adesso stai facendo? A me ha molto colpito in questo dibattito estivo sul valore dell'istruzione, della sì. cultura, della conoscenza, del fatto di andare a scuola non come obbligo, quindi come quasi cosa negativa, ma andare a scuola perché, e c'è un intellettuale importante, perché ti ha detto, perché ti rende più felice e più capacità di stare nella tua vita, qualunque sia il lavoro che fai. Esatto. No, no, ma questo mi è piaciuto vedere la tua grande sensibilità quando ti ho conosciuto, mi ha fatto proprio, mi fa piacere questo, volevo che almeno la gente conoscesse Valeria Valeria. Non la ministra Fedeli, ma Valeria, con la sua simpatia, la sua grande eloquenza e il modo di parlare che ha è molto suadente, molto interessante, e soprattutto le cose che stai facendo, che ovviamente la gente non le può toccare con mano in due secondi, però quello che stai facendo è veramente enorme. Poi c'è questa tua grandissima idea delle radio nelle scuole, valorizzare anche questa web radio. Insomma, ci sono tante cose che tu stai portando avanti con grande veemenza e con grande rapidità, nonostante la burocrazia, i tempi non facili. Certo. Per questo mi è piaciuto. Ti abbiamo scoperto un pizzico di più, però la prossima volta mi vieni con un pezzo recitato e uno cantato. Va bene. Cantato devo farmi fare qualche, diciamo, prova. Ti mando un coach. La lettura invece vediamo dopo. C'è la sfida. No, io faccio la sfida con te, perché dopo aver fatto Ferite a morte, perché poi non sai che Ferite a morte fatto al Teatro La Perla è diventato un audiolibro? No, poi 2 anni fa lo abbiamo fatto in occasione del 26 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla Camera dei Deputati. Ah, per cui ti sei replicata. Per cui c'era anche Lunetta Savino come attrice, certo. Ma c'erano le parlamentari e il pezzo mio l'ho fatto di nuovo. Ieri forte che veniva la pergola, sì. Perché eri già pronta. Perché ero già pronta, avevo già imparato le pause. Allora, la tua promessa è che ti faccio tornare la prossima volta in studio a leggere. Sì, sono molto d'accordo. Leggere, ti faccio accompagnare questo. Anche da un maestro con la musica. Che bello. Magari sentiamo pure qualcuno, qualche parente, figlio di Giannacci, qualcuno che possiamo parlare di questo. Sono molto contenta, grazie di cuore. Cara ministra, io ti auguro veramente un buonissimo lavoro e continua con questo sorriso, con questa forza che questa si attacca, è un virus che si attacca. È normale, scuole, positivo, positivo. Grazie la ministra Valeria Fratelli, grazie. E siamo arrivati ai saluti di questa nostra prima puntata dello startup di questa terza stagione di Voice Anatomy. Avete visto, sentito soprattutto quante novità. Beh, allora prendiamoci per mano anche quest'anno e cominciamo questa bella e lunga passeggiata insieme. Grazie per volerci così bene e permetterci di continuare a sognare e a percorrere questo mondo che è quello della voce. Grazie Alessandro dall'altra parte del vetro, grazie a Radio 24, grazie agli autori Rachele, Mauro Meconi, al capo progetto Alessia Navarro, e grazie soprattutto a voi. A domenica prossima.